fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eh sì, eccoci qui per raccontarsi, per raccontare, sempre live. Ristoradio Convento dal convento di Ronato. Sabato sera, sabato dinner and dance con Master Nick in onda. E non solo, perché per raccontarsi, per raccontare significa dare spazio ai nostri festeggiati, alle nostre spose, ai nostri sposi, chiunque abbia voglia di raccontare la sua festa, di dirci qualcosa. E abbiamo con noi una sposa classica, direi, perché in abito rigorosamente bianco, come è giusto che sia, come è giusto che sia. Andiamo a conoscerla insieme alle sue amiche che l'hanno raggiunta. Benvenuta. Grazie, grazie. Oh. Grazie alle mie amiche soprattutto. No, per... no, giusto, è giusto. Ma grazie a te, Laura. Addirittura, trascinato. Come ti chiami? Laura. Laura, da dove vieni? Ferrara, hai fatto un po' di strada, dai, per raggiungere. Avete fatto un po' di strada. Pulmino? L'autista abbiamo. Bravo, applauso all'autista. Francesca. Applauso all'autista, che insomma è stata. No, allora aspetta, la domanda di rito è: quante soste in autogrill per far la pipì da qui, da Ferrara qui? Non era pipì. Ah, ok, sosta mojito. Fanno i mojiti in autogrill. Fanno gli spritz in autogrill, tanto buonissimi. Buone, saranno. No, buoni? Ah, perché la leggenda dice che sono strannacquati. No. Allora, buoni. Sosta pipì. Facciamo parlare all'autista. Mentre ci fermavamo dietro il pulmino, quella era la nostra sosta. Ah, ok, quindi nulla di ufficiale nei bagni, c'è l'avventura proprio, on the road, spirito on the road al massimo. Bene, bene. E quindi un complimenti e un saluto all'autista, ma ve la fate anche per il ritorno o vi fermate in zona? Ma tornate dritte? Domani. Ah, vi fermate un attimo, così me la fate anche riposare un attimo e poi con calma tornate indietro. Tra l'altro c'è stato questo bellissimo scambio interculturale con i nostri ragazzi veronesi. Bodyguard Bagnini di prima, molto sexy, brava, sono da qua. Ma è rosso. E a proposito di te, dici un po' cosa ti porta da Ferrara fino a noi, cosa sei venuta a festeggiare qui? Li hai detti tutti, cioè, hai provato tutto, sì, prima sì. Li hai detti tutti, alla fine sei riuscita ad arrivare alla risposta giusta. Quindi quando ti sposi con chi? 6 luglio con Massimo, bene, vedi che nome potente, è un nome gladiatorio. Massimo, decimo no, vedi, lei parlava no, di a queste leggende? No, strapparla. No, strapparla lei? No, no, non strapparla. Nini, ma però Massimo è potente, è anche ben piazzato, sì, come si dice. Tarchiatello addirittura. Tanto sta succedendo l'inverosimile fuori, io sono di spalle, però mi infido. Meglio non guardare. Sì, non guardare, perché qui sono delle. Era più sexy prima. Poi non sanno cosa si troveranno tra 9 mesi. E quindi troveranno delle sorprese inaspettate nell'uovo di Pasqua. E sarà un bel festeggiamento. Allora, poi tra l'altro. Lei è forte, è veramente forte, interessante. Dicevo, tra l'altro, non tralasciamo loro, le abbiamo ringraziate prima, le tue amiche che sono in nero invece, per fare probabilmente da opposto, no, non in lutto chiaramente, però con la maglia nera. Ci vuoi dire chi sono? Ce le vuoi presentare? Questa è Natascia, è la mia testimone. Yes. Ciao. Anna, Laura, Sara, Martina, Valentina, che ci ha fatto conoscere io e Massi. Davvero? Davvero, la colpa sua. Sì. Poi c'è Ilde e poi c'è l'autista, che è Francesco. Ilde tra l'altro è un nome romagnolissimo, no? Il cane di Linus. Anche. Per una casa Ilde. Cioè no, è un nome, non lo so, emiliano, molto romagnolo, no? No, io ne conosco tante. Vabbè, insomma, vabbè, niente. Niente con la Romagna, sì. Vabbè, insomma, era per nella zona. E sono tutte amiche, qualche parente, qualche collega? Tutte amiche. Bene. Gli vuoi dire loro qualcosa? Io le ringrazio molto, perché è stata una bellissima sorpresa. Sì, beh, certo, meglio. Abbiamo tirato giù dal letto in pigiama. Sì. Mi hanno portato al bar in pigiama. Davvero? Bene. Il bar dove hai fatto una buona figura, immagino. Il bar che io frequento solitamente, quindi è stato molto interessante. E smetterà di frequentare. Esatto. Sì, è da domani, esatto. No, tanto lo prenderanno i cinesi domani, quindi no, sì, finisce sempre così quel bar. No, sono molto. Bene, mi fa piacere. No, io volevo capire un attimo di più dalla, come si dice, dalla Maria De Filippi, della situazione. Maria De Filippi che li ha fatti incontrare, quanto tempo fa, com'è successo? Raccontaci un po'. Avvicinati al microfono, così ti sentiamo. Sono senza voce, scusatemi. Vabbè, non devo riconoscere. Sussurriamo. Anni fa, ad una grigliata veramente bonaria tra amici. Sì? Era il mio compleanno. Vabbè, avrete festeggiato con la grigliata il suo compleanno, no? No, quello è stato un episodio. Ah, un altro. Giornata tranquilla, ho detto alla Laura, secondo me Massimo è la persona giusta per te, e fu così che ma che bello, ma che brava, è incredibile questa ragazza, eh? E si sposarono, però, in teoria sì. Oh, dici come mai, cosa avevi visto in loro, come mai erano le persone giuste secondo te? Erano talmente opposti che potevano attrarsi, incredibile, veramente previ del futuro questa ragazza, vedi? Però ecco, questo dimostra anche, come ci piace dire sempre, che nonostante siamo nel 2019, quindi l'era della tecnologia e del social network, ancora statisticamente le maggiori cause di matrimonio sono, me l'ha presentato lei. Cioè, nel senso, per fortuna. Sì, no, è sempre lei, tantissime. Tantissimi così, che me l'ha presentato, amici di amici, siamo usciti insieme una sera, era, insomma, statisticamente funziona così. Quindi ben vengano, sì, e benedette le amiche. Personali. Bravo, e benedette le amiche che li presentano. Brave, ragazze. Brave, bravissime. Allora, vuoi salutare anche Massimo, visto che ne abbiamo parlato, sì, di lui? Beh, non è una bella cosa che tu non sai dove sia, però vabbè, insomma. Cioè, è forse più preoccupato, ma non sì, credo, secondo me. Secondo me è andato al bar a sistemare la situazione, perché ha detto: guardate, lasciate la poverina, è un periodo un po' così, è un po' in tensione. Ha cercato di mettere una pezza, insomma, sì, no? Sì, voi, insomma, non interessa niente. Ah, no. Andrà in un altro bar. Sì, sicuramente, la che beve. Ah, ok, tranquillo, sta bene. Va bene. La che beve se la passa. No, e può anche bere le tisane, le camomille, non è per forza alcolico. Sì, la che beve se la passa. Certamente. Oppure sta facendo tipo, sai, Pollicino che raccoglieva le molliche, sta passando gli autogrill che avete fatto passare voi, anche lì per sistemare. Sono state brave, hanno fatto del casino, per assaggiare anche lui gli spritz, per vedere. Va a pagare il conto. Bravo. E si mangia una rustichella, già che c'è. Bravo. Per insomma, sistemare lo stomaco. Allora, grazie mille ragazze per essere state con noi e per aver partecipato alla nostra festa, che è soprattutto la vostra. Vi auguriamo un buon proseguimento, c'è ancora un paio d'ore da ballare, se vi va, di rimanere in nostra compagnia, e soprattutto auguri a lei, la nostra futura sposa. Ciao! Yeah!